Noi abbiamo deciso di chiamare a raccolta innanzitutto tutte le associazioni del territorio, le istituzioni, ma soprattutto i cittadini, i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati, perché pensiamo che davvero sia arrivato il momento, sulla vicenda di Gaza e di quanto sta accadendo in quei territori, insomma, di alzare la voce, tra virgolette. Quindi abbiamo organizzato un presidio che ha la funzione sia di sensibilizzare il resto della popolazione, quindi attraverso un volantinaggio, ma anche poi un flash mob dove appunto, insomma, cercheremo di dare visibilità alla vicenda di Gaza e anche di esprimere sostegno a questa missione, insomma, di pace e di aiuto alla popolazione civile di Gaza. È una raccolta fondi della CGIL, speriamo, insomma, che possa davvero dare una mano. Già nei mesi scorsi, insomma, è partita questa iniziativa, abbiamo già, la CGIL nazionale ha già inviato dei container, insomma, davvero ci auguriamo che tutti possano aderire alla raccolta fondi organizzata dalla CGIL per la popolazione di Gaza.